Friuli nel mondo, 229esima trasmissione dedicata agli emigrati. Tempo di vendemmia e di vino. È certo che la vite ebbe un culto presso i Celti, abitatori del Friuli, prima che Roma vi giungesse con i suoi fanti armati d'asta e di vanga, con i suoi cavalieri esperti nelle armi non meno che nell'agricoltura. Ma soltanto in virtù dei nuovi coloni, la preziosa pianta mediterranea doveva assurgere ad altissimo culto. Da allora, dal 183 a.C., la nostra terra si imporpora di vigne. Il suolo di Aquileia restituisce a migliaia le anfore vinarie ed olearie. Le arti decorative aquileiesi, nei triclini, nelle tombe, nelle basiliche, accompagnano alla vite e al vino il fasto, la pietà, la preghiera degli umani. Vite e vino si inseriscono profondamente nella vita del popolo friulano, tanto che a suon di boccali si davano persino le multe nei tempi beati, in cui i patres conscripti si radunavano sulla piazza del paese, sub tilio o sub frasca. Basti un esempio. Un verbale della vicinia di Vendoglio ci tramanda infatti che quegli uomini del Consei, giudicando il 23 maggio 1760 certo Antonio Colubrino perché aveva sprezzato il comune intero, gli ordinarono, a riparazione dell'offesa, di far celebrare una messa cantata et tre ordinarie, et di pagar soldi due di pane, et una bozza di vino per cada uno agli uomini del comune. Decisamente i reggitori della cosa pubblica non volevano essere inferiori, nel culto del vino, agli uomini d'arme e di toga che popolavano i castelli e le ville del Friuli. E le sagre che ogni paese vanta e tramanda all'insegna del vino, occasione a manifestazioni di gioia misurata e serena, banditi i rancori e i litigi, quale appunto si addice a chi non possiede soltanto una terra singolarmente, inconfondibilmente variata, piccolo compendio dell'universo, la proclamò un bevitore di gusto sicuro, Ippolito Nievo, ma una parlata, tradizioni, canti di grande suggestione, nei quali riaffiora una atavica malinconia dovuta ad esodi e dolori senza fine. Oh. terra di lavoro e di fatica il Friuli, e di amoroso impegno nel ricavare il vino buono e sincero e nel difenderlo dalle facili mistificazioni. Ma il tempo di vendemmia è propizio anche alle nozze, come afferma e raccomanda l'ignoto autore di queste popolari quartine. Maridaile di vendemis, la pluilunghie a carnoval, liberaile di chespenis, che guarisci d'ogni mal. Maridaile, maridaile se la ves di maridà, se spietais che veni vecchie, nanche il diavol la sposerà. Quante le qualità di vino delle apprezzatissime cantine friulane che vanno sempre più affermandosi nelle regioni italiane e all'estero? Ricaviamone alcune da queste vivaci quartine che il poeta Pietro Someda De Marco, recentemente scomparso, ha dedicato al vino bianco, senza far torto alle pregiate e più note varietà del nero, quali il Merlot, il Cabernet, il Refosco e così via. E viva il blanc de furlanie, vite dall'arte de poesie, sagris, brears, ioi celigrie, cence dal blanc no sandinie, e no cordilu, no la savor cence dal blanc nanche l'amor, bevin ramandul la sua torlan, clar come l'ambre morbite sang, e un tai di blanc a Bertiul, caldà salut a miez friul, e poi il tocai la iua musclet, fin l'izzerin, ma bastun det, e per i buele, l'inga rosazis, alle un licor scolin gli stazis, ding sotto al risling, cala l'odor tan delicat da lui in flor, e di faedis color zechin, alle il verduz sec civilin. O blanc superbus di saurnian, o blancs dal quei simpri italian, e il blanc alciante un'armonie dall'alte e basse, per furlanie. Tutti i pensiers e van in frae, e la baldorie nessun la pae. E c'è, si capisce, colui che si sforza di dimenticare crucci e tristezze o di trovare sollievo agli immancabili malanni e un po' di pace ricorrendo all'onesto bicchiere come questo buon uomo che Rino Borghello ci presenta in Chiocche vaiote. La sai, mi besol, soi dut squintiat, soi stufe, soi strac e tan magonat. La femmine a chiase mi clame Manel, i fispo mi tratin tant come un ufiel, ca un altri scliput. Ed ut quest parvie che io soi restat, bisogna ben dile, condute onestat, un om fur di square, di che di une volte, e con tant pensà, darai po' di volte, ca un altri scliput. C'è colpe povino di esi nasuz, avonde dolor sovin cognosuz, ca un altri scliput. Tal nassi, tal cresi e fin tal morì, ie simpri che storie, si scugne patì, e allora si tente di no pensai su, ed ut parparasi dal mal di caiù, ca un altri scliput. Ma lasciamo le malinconie, e fiduciosi nell'avvenire, uniamoci anche noi alla festosa esplosione di questo canto. Olimberti, torna a te. Vende ma sulla stagione, Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.